apprezzava molto il lavoro nel call center perché le permetteva di non lavarsene, e cioè che poteva andare anche trasandata al call center perché nessuno comunque la giudicava dall'aspetto. In effetti non c'era una grande attenzione a noi come ci presentavamo, eravamo controllate al telefono, ma neanche più di tanto, perché poi comunque erano cose in cui quello che contava era fare, cioè raggiungere livelli di produttività attesi, quindi non importava il come. E poi telefonavi in tutta Italia, telefonavi in paesini sperduti della Sicilia dove veramente era difficile farsi pure capire, magari dovevi fare un questionario completo sui consumi o sulle abitudini rispetto alle scommesse, al gioco, quindi veramente erano esperienze interessanti rispetto ai dialetti. Poi ti capitavano le interviste, quelle sex, in cui il maschio di turno solo in casa cominciava magari a masturbarsi, e poi a fine di queste telefonate c'erano sempre i commenti tra quelle che non erano in quel momento impegnate in interviste, con questi tabulati sempre più scarabocchiati perché dovevi provare e riprovare finché non beccavi qualcuno a casa. Rompe i coglioni perché vabbè io comunque non facevo ogni tanto facevo qualche macello perché così e poi vabbè poi sono venuta a scoprire altre cose divertenti, imbarazzanti che vanno al di là del lavoro e che là dentro cioè, erano reputate normali, tipo prestare operaie chiamate per prestazioni sessuali e storie del genere. E così. E che altro? La tentazione di lasciare tutto e cambiare, però da un altro punto di vista non ho la volontà di lasciare che le cose vadano come vanno. Anche perché io veramente non vorrei lasciare questo paese come l'hanno in questo modo ai miei nipoti o alle generazioni che vengono. Quindi quel poco, pochissimo che posso fare, cerco di farlo. Ci ho provato, però ho fatto varie domande, ho fatto vari concorsi, quindi mi sono scontrata con dei muri invalicabili, insomma, anche con un muro di gomma, ancora peggio. Mi sono scontrata con questo muro di gomma perché forse non potevo essere il cliente di nessuno, per quale motivo? La mia famiglia non aveva appoggi giusti nel mondo accademico, diciamo, non conoscevamo nessuno, non avevamo parenti con nessuno. Io tra l'altro mie passioni, a quello per cui comunque studio, fossi stata più determinata, però nell'ambiente comunque fondamentalmente nell'ambiente di appunto degli italiani che poi vanno a vivere là, che principalmente fanno determinati tipi di lavoro, cioè io parlo a livello di una qualifica specializzata. Nell'amministrazione pubblica le donne sono meno discriminate, nel privato è disastroso. Alcune studentesse sono andate in Australia dopo aver provato a fare qui la direzione di cantiere. 900 che ne guadagnava, quindi ci siamo ritrovati così sfruttate e poi secondo tempo siamo state messe appunto subito sotto cassa integrazione, abbiamo accettato di fare a rotazione, cioè anche facendo il lavoro degli uomini, perché visto che secondo me non c'è nessuna differenza tra un uomo e una donna, quindi abbiamo accettato anche di fare il lavoro degli uomini. Al mese che ti devo andare io, vai te che tu guadagni di più, sto a casa, cioè c'è parecchia solidarietà su questo, cioè siamo un bel gruppo. E credo che una piazza come questa, che poi rientri anche nel discorso della festa del non lavoro al Forte Prenestino, sia molto, molto importante. E penso anche che sia importante cominciare a parlare anche della presenza che c'era poi in piazza, tantissime persone anche che si sono aggregate nel corso del corteo. Spillero, sottopagati, ma vabbè. Però in realtà in Veneto i lavori te ne tirano dietro quanti ne vuoi, il problema è che sono tutti uno peggio dell'altro. Perché finalmente la vedei a Roma? Perché ci voleva, perché Roma è una città che da sempre esprime una complessità della situazione lavorativa e non solo, abitativa e quant'altro, è una metropoli, è la metropoli più grande che abbiamo in Italia. E quindi perché non prima, forse è la domanda. Finalmente c'è stata la May Day, perché almeno nella quasi totalità dei casi che mi si sono presentati il coordinatore di uno di questi servizi è una persona che non ha minimamente neanche, non solo non ha frequentato scuole adeguate, ma non ha né l'esperienza né le facoltà per essere coordinatore di un servizio, perciò il più delle volte le persone che sono in amministrazione al potere, fra virgolette, sono autodidatti, ex volontari o amici di amici. E perciò invece nel caso mio, in cui sono una persona che ha studiato e continua a studiare, deve dar retta a persone che non sanno neanche cos'è un colloquio con un utente, insomma. Di anni a babysitter, che è il lavoro mio ancora attuale. E imporsi e combattere anche veramente giorno per giorno.